Bentornati a tutti, all time rock and roll, questa è Radio F. Cosa urli, cosa berci? Dai, vabbè, è la prima volta che parlo quest'anno, l'altra volta non c'ero. Ah, giusto, giusto. Beh, la prima, le prime parole del 2014. La prima patrussata del 2014. Sì, sì, chiamiamola così, dai. Bentornati con la sesta puntata di all time rock and roll. Anche in questa puntata abbiamo i compleanni. Continueremo a parlare della storia del rock del 1967. Yes. La formazione, io sono il Patru, accanto a me il Nanno, che si è improvvisato tecnico. E poi sempre accanto a me il Luke. Eccolo. E oggi purtroppo manca il Bindo, il nostro carissimo Bindo, perché prova a dirlo purtroppo. Anche questa volta in maniera seria. Ormai non lo giustifichiamo più, però. Prova a dirlo serio anche questa volta. Il Bindi manca perché è a fare un corso per il lavoro. Provato come sempre. Ha Bindo, detto c'ho una riunione, ma saranno lì a giocare a briscola. Vabbè, no, da vediamo. No, forse no, dai, a Firenze. Vabbè, dai. E andiamo avanti. 70 euro di aumento per giocare a briscola. Dov'è a Firenze? 70 euro. L'aumento ha preso. Sì. Ha preso anche l'aumento. Non lo sapevi? Sì, no, lo sapevo, ma l'ho automaticamente rimosso dalla mente perché. È rimasto male. Vabbè. Io che vabbè. Andiamo avanti, andiamo avanti. L'unica cosa che possiamo fare è andare avanti. L'unica cosa. Show must go on, come diceva. Guarda il Nanno, che impostazione ha la console. Ha una impostazione naturale. Doveva fare il pianista. Però piano. Il pianista piano. Sì, più che altro rosse, che ci ha fatto? Ma guarda anche lui, guarda. E l'è freddo. Primo compleanno di oggi è di Ronald Wayne Ronnie Pappappero Van Zandt. Ma chi è che ha messo Pappappero? È il Bindi. Io un paio di volte ce l'ho trovato. Vabbè. Sappiate che io lo dirò random durante la puntata. Pappappero. No, forse ho sbagliato io l'accento. Pappappero. Pappappero. Van Zandt, nato a Jacksonville il 15 gennaio del 48 e morto a Gillsburg il 20 ottobre 1977, è stato un cantante statunitense, voce del gruppo Lynyrd Skynyrd. Nell'estate del 64 Lynyrd Skynyrd, Lynyrd Skynyrd, Van Zant in compagnia di Allen Collins alla chitarra, Gary Rossington alla chitarra sempre e Larry Johnstone basso e Bob Burns batteria, fonda il gruppo dei Lynyrd Skynyrd. La sigla papapero. La sigla è una papapero che ci invita a ricordare il buon Ronnie Papapero. No, non è papapero chiaramente, non è. Cioè, no, il Bindi ci da noi e basta. Ma, che poi ha detto, la riguardo io la scaletta, la rifaccio. Ma io questa... cioè, ci ha messo solo papapero. Ci ha messo sto compleanno, non sa da farsi. Ragazzi, io ve lo dico, sarà pieno di messaggi di papaperi simil subliminali. Questo testo di oggi. Ma ci ha messo mano il Bindi. No, non credo che tanto. Comunque, la sigla è una sarcastica storpiatura del nome di un insegnante di ginnastica, pensate un po', Leonard Skinner. Che non è quello dei Simpson. Papapero. No. C'è scritto ancora. L'ha riscritto di nuovo. Comune ai 5 componenti della band, frequentatori della stessa scuola. L'autoritario professore era... Oddio. Mi viene da ridere troppo, perché lui lo sa... Cioè, diciamolo in diretta, noi quello che scriviamo lo rileggiamo in diretta, non è che facciamo le prove. E lui ci ha infilato queste parole apposta così. No, vabbè, io la rileggo. Infatti, dai. L'ho visto, papapero. L'avevo anche scancellata all'inizio e ho detto, no, vabbè. Allora vuol dire che lo sa di me e fa apposta. Comunque, ai 5 componenti della band, frequentatori della stessa scuola, l'autorità del professore era contrario ai ragazzi che si presentavano con i capelli lunghi e loro l'hanno, diciamo, un po' reso famoso prendendoli in giro, chiamandoci appunto il gruppo Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama. Big wheels come on turning. Well, I heard Mr. Young sing about her. Ed era il primo compleanno di oggi, Sweet bene, Home bene. Alabama. E dobbiamo per forza raccontare la scena che è appena accaduta. Sì, per forza, per forza. Perché è arrivato il biondo, il tecnico. Buonasera a tutti, eh. Sera, sera. Raccontate, Luke, vai, che sei un po' il protagonista. No, il protagonista no. Però. No, va. Diciamo che ha salvato, protagonista in negativo, perché pensavo di essere l'ultimo ad essere arrivato. Ho chiuso la porta e invece sono arrivato su. Esatto. Al Mazzeo e alla pace arrivo a 5 minuti. Non ho ripensato la porta. Sì che lui è stato giù 10 minuti. Sola. Io che guardo l'orologio e faccio, ma quanto ci, ma sa quanto ci vuole? Poi 5 preciso minuti. Non ci poteva chiamare perché ha finito i soldi nel telefono. Poi a un certo punto illuminazione, Valerio mi fa, dice, ma Luca hai chiuso la porta? Dico sì, perché? Ah no, ma se arriva il Masa, dico vabbè, ha ragione. Allora ho alzato la porta, apro la porta. Io così nel dubbio, quando arriva trovo aperto. Invece era già lì. Era già lì. Poi sale su. Masa, ma eri, ci aspettavi? Basta. Scusa Masa. Niente, niente. Continuiamo. E dopo questo aneddoto andiamo avanti con il secondo compleanno di oggi. Lui è Ray Simpson, nato nel Bronx il 15 gennaio del 1954. È un cantante e attore statunitense noto per essere l'attuale cantante del gruppo musicale Village People, sostituendo Victor Willis nel 1979. Come il suo predecessore Willis, Simpson è l'unico membro eterosessuale del gruppo. Simpson, papà, si fece notare, sto scherzando, si fece notare dal pubblico per il film Can't Stop the Music. In molte delle sue precedenti registrazioni la sua voce veniva doppiata proprio da Willis. Quindi tantissimi auguri, e questi sono i Village People con In the Navy. Anche se c'è da dire che è un po' particolare la cosa che lui era l'unico eterosessuale. Sì, è un po'... Beh, se guardi i loro video non è che... Sì, sono un po', cioè, particolari. No, un po' particolari, io direi. Un po' così, insomma, dai. Anche come Village People, strano che non abbiamo messo YMCA. Cosa che Luke sa ballare benissimo. Tra sa ballare benissimo nelle altre cose per Capodanno. Io ero l'impacciato. Luke, vai nel mezzo, vai, balla da tu, balla, balla, balla. Ma di che parlate? I Village People in the Navy. erano i mitici Village People con In the Navy. E adesso continuiamo la nostra storia del rocks del 1967 e andiamo a parlarvi di Van Morrison, il cappellaio matto di Belfast, e della sua Brown Eyed Girl, dall'album del 1967 Blowing Your Mind. In origine la canzone si intitolava Brown Skinned Girl, quindi essere scuro era il colore della pelle e non gli occhi. Era infatti la rievocazione della storia di amore, di un amore di gioventù tra il protagonista, appunto Van Morrison, e una ragazza di colore. Papapero. No, qui non c'è. Scusa. No, va bene, no, meglio, va bene, va bene. Convinto dalla casa discografica a cambiare per evitare la censura delle radio che nei pur favolosi anni 60 era di maglie strette, attenuò il colpo. Presto si presentò un altro problema, perché all'interno della canzone c'era un verso che faceva Making love in the green grass, mentre facevamo l'amore nella macchia, nell'erba verde. Ora nella macchia proprio no. Romantico nell'erba verde. Van Morrison cambiò anche questo verso e finalmente il brano ebbe successo, soprattutto in America, dove stava impazzando l'estate dell'amore e i costumi erano molto più liberi rispetto al resto del mondo. Nel 2005 la Casa Bianca rese noto che nell'iPod di George W. Bush uno dei brani più ascoltati era per l'appunto Brown Eyed Girl. Ancora oggi regolarmente ogni anno Brown Eyed Girl riceve il Million Air Certificate, dove si attesta che le radio britanniche l'hanno trasmessa almeno 1 milione di volte. Nel 2007 è successo addirittura 8 milioni di volte, superata solo da Every Breath You Take dei Police. Van Morrison, Brown Eyed Girl. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow, playing a new game. Laughing and running, hey, hey. Skipping and jumping. Hearts that thumping in you, a brown eyed girl. Era Van Morrison con la sua Brown Eyed Girl. Adesso vi facciamo ascoltare i Procolarum e vi sveleremo un piccolo aneddoto sulla loro canzone A Winter Shade of Pale. Papapero. Pensate che Papapero. Pensate che in Italia uno dei primi ad ascoltare il brano è un certo Mogol, che all'epoca lavora presso la Dischi Ricordi e che scrive un testo in italiano per i Dick Dick con il titolo Senza Luce. Scusate. Il disco, grazie. Il disco viene pubblicato il 20 agosto e va subito al primo posto in classifica, restando complessivamente in hit parade per 17 settimane. Anche la versione originale dei Procol Harum raggiungerà Pappappero. Il primo posto nella classifica italiana, restando complessivamente 21 settimane nella hit parade. Quanto è idiota il Bindi. Proprio stupido. Non ha niente da fare. Caso quasi unico per una canzone di cui era già uscita la cover. Le vendite in Italia saranno così elevate che Gary Brooker invierà una lettera ai Dick Dick ringraziandoli per le royalties che gli arrivavano come diritti d'autore dalla SIAE. Insomma, un bel introito. Beh, sì. È proprio di sì. Canzonona, Procol Harum, Winter Shade of Fate. Ed erano i Procol Harum. E ricordiamo che questa è la puntata Pappappero. Sì, la puntata, cioè, Pappappero ufficiale. A random diremo la parola Pappappero, che non ha nessun significato, ma perché il nostro tecnico Bindi, che oggi manca, l'ha inserita così a caso nella scaletta. Il Bindi ha una forza che è meravigliosa. Sentitemi questo elogio. Da ammirare. È veramente incredibile. Ma ci piano, sennò si monta la testa, eh. È veramente incredibile come riesca a disturbare le persone anche in sua assenza. È vero. È una forza della natura, è una cosa incredibile. Cioè, da più noia. Vado a Firenze e torno, scusate. Vai. A vedere la viola. No, ammazzallo. E a vedere la viola. A vedere viola lui diventa viola. E andiamo avanti. e parliamo dei Turtles e della loro Happy Togethers. Loro sono Leonardo, Michelangelo, Raffaello e Donatello. Ninja Turtles. Scusate. E il com'era il maestro? Splinter. E la banana senza Splinter. Senza Splinter. La c'era visto la foto Splinter Cell, c'è cioè lui e se, vabbè no, lascia perdere. Cose da nerd mie e del Bindi. Vabbè. E la canzone che nel 1967 scalzò Penny Lane dei Beatles dalla prima posizione e che rimase per 3 settimane sul tetto del mondo e che nessuno voleva. Dopo quello. Era stata scritta da Alan Gordon e Gary Bonner ed era stata sulle scrivanie di tutte le case discografiche. Quando fu fatta ascoltare ai Turtles, non Ninja chiaramente, sempre loro, il demo era così consumato che il nastro davvero logoro era quasi inascoltabile. I Turtles, che già avevano dedicato poca attenzione a Eve of Destruction, rifiutando di farlo uscire come singolo, quando nell'interpretazione di Barry Maguire sarebbe divenuto un hit colossale. Videro comunque le potenzialità dell'hit e decisero di inciderla. Alan Gordon, papà Pero, l'aveva scritta mentre faceva colazione al Park Street Dinner. Hai aggiunto di te? Sì. Bravo. Grazie. Prego. Ci stava bene. Non l'ho detto, lo dico random anche quando c'è. No, ormai ce l'ho nel sangue il papà Pero. Va bene. Mentre faceva colazione al Park Street Dinner di Ayer nel Massachusetts, poco prima di andare a trovare suo padre divorziato. Forse fu quel pensiero a fargli venire in mente. Grande pensiero. Tagliele secche. Oggi quella foto col ciuco. Ma quella foto col ciuco è meravigliosa. È fantastica. O ciuccio Mazzeo. No, spieghiamo a chi ci ascolta. Sì, no, se no sembra. Cosa stiamo parlando? No, è vero. È Perseo che lavora sempre all'Enel, però lui lavora veramente. Sono gli unici due, tranquillo, non è che tutti i nostri amici lavorano all'Enel tranne che noi. Sono gli unici due. Lui lavora veramente rispetto al Bindi. Vero. E non si sa come mai oggi si è imbattuto in un ciuchino e ci ha fatto la foto insieme. Ci ha fatto la foto con lui che ride, il telefono in mano. E il ciuchino dall'altra parte ride, È vero. E abbiamo subito pensato al Mazzeo quando abbiamo visto un ciuccio. Un ciuccio Mazzeo. Poco prima, questo l'ho già detto, forse fu quel pensiero a fargli venire in mente la storia, grazie per interrompermi così, bellissimo, papà Pero, forse fu quel pensiero a fargli venire in mente la storia di un grande amore, di due persone felici insieme appunto, Happy. Tu che ormai qui sei assunto per essere interrotto. Ovvio, io non devo fare altro. Le grandi canzoni non invecchiano, alcune immagini a volte sì, ma non per colpa dell'autore. C'è una strofa che dice: se dovessi chiamarti e investire 10 centesimi e tu mi dicessi che mi appartieni e mi tranquillizzi, immagina come potrebbe essere bello il mondo così felici e contenti insieme. Quasi. Pensavo dicessi papà Pero. The end. Papà Pero. I 10 centesimi si fa riferimento al dime, una moneta appunto di 10 centesimi dove si doveva infilare nei telefoni pubblici per fare le chiamate urbane, anche se c'è da dire che oggi ai nostri tempi tutto si riassumerebbe in un TVB, in un acronimo e via, quindi si perderebbe molto romanticismo di quei 10 centesimi. E i Turtles con Happy Together. I think about you day and night, it's only right to think about the girl you love and hold her tight, so happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. Release my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. And you and me, no matter how they to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. I Turtles con Happy Together. E continuiamo con una grandissima canzone dei Beatles, ovvero Penny Lane. Delle infinite strade che hanno dato vita a una canzone, Penny Lane è indubbiamente la più famosa. In realtà il brano dei Beatles non parla specificatamente della di una via di Liverpool, ma di un roundabout della città. Lo Smithdown Palace, all'incrocio con Smithdown Road e Allerton Road, dove ci sono le fermate degli autobus che Lennon e McCartney prendevano sempre per andare in centro. Chi è stato a Liverpool e ha camminato per Penny Lane sa che si tratta in realtà di una zona periferica di scarso interesse, ma nell'immaginazione dei Beatles corrispondeva al luogo della giovinezza e dei sogni. Nel brano, come ha ammesso lo stesso McCartney, compaiono persone reali e fittizie. Il barbiere è James Bioletti, che aveva tagliato i capelli a George, Paul e John quando erano bambini. Il banchiere senza impermeabile che guida la moto è invece pura invenzione, così come il pompiere che porta sempre in tasca una foto della regina. Vale. Papapero. Ah, scusa. È vero però che a Penny Lane c'erano, al tempo chiaramente, due banche e una caserma dei vigili del fuoco. Nel ritornello i Beatles hanno inserito una cosa curiosa, la finger pie, letteralmente torta di dita, che era un'espressione gergale e oscena dei ragazzi di Liverpool. Per molti mesi dopo l'uscita del disco, le cameriere dei locali inglesi dovettero sopportare ordinazioni di 4 fish and finger pies, ovvero 4 penny di patatine e torta di dita. Davano proprio 4 penny di patatine. 4 penny di patatine. E quanti sono? Contate, non lo so. Ragazzi, oggi sono buono, me ne do 5. Penny Lane era originariamente stata concepita come parte di Sgt. Pepper's, ma uscì prima come singolo per le pressioni dell'etichetta americana che voleva un disco dei Beatles il prima possibile. Il filmato promozionale non fu girato a Liverpool, ma a Londra, a Angel Lane. Sembrava strano. E a Sevenoaks, nel Kent. Vanno tutti a Londra. Dove era stato girato anche il video di Strawberry Field Flowers. Entrambi film. Forever, che Flowers? Oh, scusa, Forever, hai ragione. Romantico. Mi prende pia a parte. Show i flowers. La fiore in testa. Innamorato. Perché mi era venuto paro un po' più. Ragazzo innamorato. Entrambi. I fiori nel Forever. È un ragazzo. Entrambi i filmati sono stati selezionati dal MoMA di New York come esempio di video musicali ante litteram degli anni 60. Penny Lane è anche il nome di una groupie nel film Almost Famous. Penny Lane. Beatles, Penny Lane. Adesso continuiamo a parlarvi dei Doors. Seconda puntata del 67, vi avevamo parlato. Che, tu dei Doors. Che strano. Ragazzi, il colore. Guarda, guarda, ci ha provato. Guarda, ci ha provato. Oh, scusate. Ma che cosa? Stava per bloccare la registrazione del podcast. Ci ha provato un'altra volta. Ci sono andato vicino. Patro, un click dentro del mouse. Il Patro con quel mouse lì davanti è pericoloso. Intendo, ragazzi, un gaming. Ti viene naturale. Io quando ho una tastiera davanti devo giocare, devo. Cioè. Comunque dicevo, i colori sono rimasti soliti della vecchia scaletta. Non sì, è che sì, sì. Ah, ecco. Te l'ho detto, ha modificato solo allora anche Papa te... Pero. Ha aggiunto solo Papa Pero. Il Bindi. Allora anche te leggi sempre i Beatles. Eh sì. È vero. Al Mazzeo gli sta bene, guarda. No. Al Mazzeo non legge niente, c'ha poco da lamentarsi qui. Oh. Un certo disappunto nella faccia di Ucciuccio, Mazzeo. Guardalo con quel masticone che Love Me Two Times è il titolo di una canzone del gruppo The Doors, scritta dal chitarrista Robbie Krieger. Questa canzone fa parte dell'album Strange Days, uscito nel 67. La canzone divenne il secondo singolo estratto dall'album, dopo People Are Strange, e raggiunse la posizione numero 25 nelle classifiche USA. Ray Manzarek suonò la versione finale della canzone usando un clavinet, ovvero una versione moderna del clavicordo, da non confondere con il clavicembalo. Ah, scusa. Hai capito? Ora ho capito tutto. Perfetto. Scusa. Secondo i membri della band, la canzone... Papapero. Appunto, bravo Pat. Grazie. Racconta l'ultimo giorno trascorso da un soldato con la sua fidanzata prima di partire... Scusa, Luke. Scusa. Un botto gli ho dato... Qui mi prendo una gomitata, ragazzi. Ma io perché? Dire... Perché? Io mi chiedo perché. Allora, perché purtroppo io oggi sto in piedi. No, perché? Andiamo giù, c'è scappato giù, c'è. Perché purtroppo sono andato in palestra e ho un mal di gambe allucinante. Devo stare in piedi, ma non mi so ancora regolare con le misure. Mi sono girato e ho dato una gomitata paurosa sulla spalla del Luke. No, vabbè, abbiamo. Scusa, Luke. Ho voluto fare un po' il Balotelli della situazione. Ho accentuato. Hai accentuato. Sì, non era così violenta, dai. Comunque, dicevamo. Insomma. La canzone racconta l'ultimo giorno trascorso da un soldato con la sua fidanzata prima di partire per la guerra del Vietnam. Letteralmente il testo recita così: amami due volte, ragazza. Una per domani, una solo per oggi. Amami due volte, sto andando via. Curiosità, gli Aerosmith hanno eseguito una cover di questo singolo, abbastanza interessante. The Doors, Love Me Two Times. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, could not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me too tight, girl. Last week, all through the week. Love me too tight, I'm gone away. Love me too tight, baby. Love me twice today. Love me too tight, baby. Ed erano i Doors con Love Me Two Times qui su Radio F, Old Time Rock and Roll, sempre io il Patru, il Nanna accanto a me, il Luke e il Luke. Eccolo. Questa è la puntata Pappappero, ricordiamolo sempre, la parola che verrà messa a caso durante la puntata, così che non significa niente. E andiamo avanti con la storia del rock. No, qualcosa significa invece. No, no. È che Bindi è un pochino bischero che ci fa i scherzini. Solo quello significa. No, a proposito, ci fate caso che quando non c'è lui facciamo le migliori puntate di della sempre. Nostra di vita. Cioè, siamo proprio. Sì, sì, siamo proprio deficienti all'ennesima potenza. Sì, sì, proprio. Forse niente, perché sentiamo la sua mancanza. Probabile. Forse perché no, colmiamo. Forse perché non ci distrae in continuazione. Anche. No, anche perché non siamo ogni 5 minuti a svegliarlo. Quindi già il tempo che sprechiamo nello svegliare lui, lo diciamo, vabbè. No, e così è la sua dose di siamo amici. Se l'è presa anche oggi. Anche oggi. Siamo amici, ragazzi, non mi preoccupate. E andiamo avanti, parliamo dei Buffalo Springfield e della loro For What Is Worth. La prima grande canzone scritta da Stephen Stills, non per Crosby, Stills, Nash e Young, ma per la prima band in cui lui e Neil Young hanno militato, cioè appunto i Buffalo Springfield. Attraverso una serie di immagini perfettamente a fuoco, Stills dipinge uno scenario di violenza imminente. Da una parte uomini con un'arma in mano che sono pronti ad intervenire, dall'altra migliaia di persone nelle strade che cantano canzoni e sollevano cartelli. Beh, sembra proprio una delle tante scene di contestazione studentesca o contro l'intervento in Vietnam. Secondo alcune interpretazioni che per anni hanno trovato credito, la scena è invece quella della Kent State University, quando la Guardia Nazionale dell'Ohio sparò contro studenti e passanti, uccidendo 4 persone e ferendone ben 9. Come spesso accade, nessuno controlla e le voci si diffondono e nessuno si accorge che i fatti della Kent State University risalgono al 1970, e invece questa canzone è di 3 anni prima, quindi non ci può entrare assolutamente niente. Avevano una macchina del tempo, non credo che, e un gilet arancione e il doc a canto e flusso canalizzatore. No, no, ma la finisce 1,21 gigawatt. La finisce ne mangia il filo de... Non ho mangiato niente, sono vecchio. Ma... E allora un 2,20, vai. Di cosa parla For What Is Worth? Beh, semplicemente parla di un pub, cioè la chiusura del Pandora's Box, un locale sul viale del tramonto di Los Angeles, Pappappero. Bravo Masa, col ditino me l'hai ricordato. Me l'ero scordato completamente. Oh, ciuccio. Amatissimo dai ragazzi che avevano energicamente protestato contro quella decisione. Ma come spesso accade, le canzoni a un certo punto si ribellano a chi le ha scritte e prendono una vita tutta loro, molto diversa da quella che dei genitori avevano programmato. I Buffalo Springfield con For What Is Worth. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop now. What's that sound? Ritmo travolgente dei Buffalo Springfield con For What Is Worth. Ora continuiamo con un piccolino pezzettino piccolino mi avete dato. Piccino, Love, piccino. Love Is All Around dei Trucks. C'è chi Gorini. È stata la cover di numerosi artisti, tra cui i Rem e di Wet Wet Wet, che l'hanno incisa per la colonna sonora del film, di un film del 1994, Quattro matrimoni e un funerale. Quest'ultima versione è stata un grandissimo successo internazionale, trascorrendo ben 15 settimane alla numero 1 della UK Single Chart. Trucks, Love Is All Around. Come on and let it show.

Aspetta, che non sono pronto. Le cuffie. Guarda qua, che assistenti, ragazzi, che c'ho io. Ed erano i Rolling Stones con, non mi ricordo, Ruby Tuesday. E ora andiamo a parlarvi dei Pink Floyd e di See Emily Play. Parla di una ragazza che Syd Barrett stesso ha rivelato di aver visto in una foresta mentre era sotto l'effetto di droghe allucinogene. Effetto ricreato dall'atmosfera psichedelica della musica e dal testo al limite del no sense. La ragazza sarebbe in realtà l'artista Emily Young, figlia del barone Hilton Young, soprannominata Psychedelic Schoolgirl, studentessa psichedelica. Nel 1973 David Bowie, autore tra l'altro di una cover di un altro classico dei Pink Floyd, Arnold Lane, ha registrato una sua versione di See Emily Play per l'album Pin-Ups. John Frusciante, chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, l'ha interpretata durante un concerto della band nel 2007. Altri gruppi della scena progressive hanno inoltre realizzato cover di questa canzone. Pink Floyd, See Emily Play. Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games to play. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games to play. See Emily play. Ed erano i Pink Floyd con See Emily Play. Papapero. E siamo arrivati alla fine anche per oggi. Sono le 20.04. Sì. Quindi, signor Patrussi, ricordiamo, come tutte le sere, i nostri appuntamenti senza cuffie, lo ricorderò. Mi sento coraggioso. Ce la fai lo stesso, sei ovvio. Sicuro? Ricordiamo la nostra pagina Facebook, Old Time Rock and Roll. Ricordiamo il podcast di questa puntata che il nostro simpaticissimo e operatissimo Valerio linkerà sempre. Posterà sempre sulla appena, pagina Facebook. Appena fermo, piccolo antefatto, appena la Telecom mi ridà la DSL. Beh, perché... ok. Dai, che sarebbe il passamacchina. Perché è un po' rotta la linea, c'è questi problemi. Noi ci risentiamo sempre mercoledì prossimo. Alla solita ora. Puoi fare un appello affinché venga. Signori delle linee telefoniche, non puoi usare la radio come mezzo personale. È una settimana che sono senza DSL, quindi se volete intervenire, per cortesia. Se ti può consolare, a Lucignano non l'hanno mai avuta la DSL. Vanno con 56K. Sì. Oh, che bello. Veramente? Sì, non lo sapevo. No. È vero. Ma siamo tutti, non siamo coperti. Vabbè, 2014. 2000, sì. Guardiamo la luna. Vabbè, ci risentiamo mercoledì prossimo. Come? Ah no, aspetta, ricordiamo allora, l'appuntamento. Ricordiamo. Allora, o fai fa lui o fai te. Ricordiamo l'appuntamento con Claudio stasera, con Sugar Night. Vedi, vedi. Bravissimo, Valerio. E con un altro programma di Radio F, ovvero Piazza Alta, domani con Enzo e tutti gli altri, insomma. Esatto, sempre dalle 22. Quindi vi salutiamo. Saluta Patro, prego. Ciao. Ciao. Siamo sicuri di voler andare via? No, no, non lo so. Ho paura a parlare. Possiamo. Perché... Guarda, aspetta, inizio a parlare. Senti, Claudio c'è tra un'ora, quindi se vuoi rimanere. Dai, ci risentiamo mercoledì prossimo, come sempre, dalle 19 alle 20. Papà Pero. Ciao. Ciao.